Buonasera a tutti e tutte. Allora, questa iniziativa che abbiamo convocato per oggi vuole essere un dibattito che nasce da una chiacchierata che, rispetto a delle esigenze che c'è stata da parte di compagni di diverse aree di movimento, e quindi non omogenea, insomma, e vuole essere, insomma, vuole parlare a 100 anni di distanza di un evento che ha caratterizzato il movimento. Insomma, del rivoluzionario 100 anni fa, soprattutto in merito a quello successo in Germania nel 1919. E quello che sarò breve, perché comunque non voglio fare un'introduzione troppo lunga, ci saranno 4 interventi introduttivi al dibattito. Diciamo che quello che vuole essere oggi non è un dibattito mitologico o di commemorazione, ma quello di una riflessione su un evento storico che a 100 anni fa riteniamo ancora attuale, e soprattutto per svelare il vero volto della socialdemocrazia come argine della sinistra rivoluzionaria, e capire le sconfitte, le cause, le ragioni della sconfitta del tentativo rivoluzionario in Germania. E anche quello per diciamo, centrare gli elementi dell'esperienza, le ragioni della sua sconfitta, e mettere a bagaglio storico del movimento questa esperienza. Al di là delle differenze, delle varie anime di movimento, riteniamo opportuno ricominciare a parlarsi schiettamente rispetto alle tematiche del mondo rivoluzionario, affinché ci sia la possibilità di, insomma, di andare oltre alle varie divergenze, le varie differenze di vedute, per ritornare a fare comunque un dibattito dialettico utile ai fini del compito che è quello dei rivoluzionari. E, senza dilungarmi troppo, insomma, lascerei la parola a Bobbo, che farà, diciamo, un'introduzione storica sull'evento, e come si arriva al 1919, qual è la situazione storica, la situazione politica a livello europeo, e, diciamo, quali sono eventualmente le caratteristiche del carnefice di questo evento del 1919. Lascio la parola a Bobbo del Quadraro. Okay. Nonché un po' ricercatore di storia, ciò che non vuol dire nulla, nel senso che non mi dà una competenza maggiore per parlare, però si capisce anche perché mi arrogo il diritto di farvi un'introduzione storica, che altrimenti ci poteva essere chiunque, non è per presunzione. È anche difficile fare un'introduzione storica in breve tempo, perché poi fatalmente si rischia di essere un po' pedissequi, pesanti, pedanti, oppure di ridurre un po' tutta la complessità che ha la storia, che è sempre complessa. Ed è l'evento che è il centro poi di questa giornata di ricordo e di riflessione, che è la rivolta spartachista, avviene tra il 2 gennaio e il 14 gennaio, fino, diciamo, al 19 gennaio 1919, quando alla fine le elezioni dell'Assemblea Costituente segneranno un prima e un dopo, nascerà ufficialmente la Repubblica di Weimar. La Repubblica di Weimar e la socialdemocrazia, ovvero il carnefice di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, nonché gli altre centinaia di operai e operaie, soldati, che erano scesi in piazza a Berlino in un tentativo insurrezionale, purtroppo destinato alla sconfitta, sono il centro della mia riflessione storica. Tramite la socialdemocrazia vi inquadro il periodo, ve lo inquadro quindi attraverso il carnefice. Ora, il vincitore pro tempore, non è la socialdemocrazia, vince ma non trionfa, vince lasciando sul selciato sangue operaio e sangue comunista, però questa vittoria è effimera. Già nel 1920 perdono un sacco di consenso verso sinistra in particolare, e lo stesso Unione della socialdemocrazia dopo il 1919 viene meno, c'è, cioè, una separazione. In realtà per il Trattato di Versailles, ma non solo. La socialdemocrazia tedesca ha una storia particolare. La socialdemocrazia tedesca non è mai stata al governo fino a quel momento. fino alla fine del 1918. Nell'ottobre del 1918, quindi prima dell'armistizio italiano, che è il 4 novembre, la Germania fa un armistizio, lo fa Ludendorff, generale espressione del militarismo tedesco, dietro la quale si agitava una serie di partiti, in particolare il Centro Cattolico, la Socialdemocrazia e i Progressisti, che durante la guerra, paradossalmente, quindi nel fenomeno bellico per eccellenza, avevano guadagnato la legittimità di andare a governare la Germania. Dovevano andare a governare ovviamente la sconfitta, altrimenti i militari non avrebbero lasciato il potere, il Kaiser Guglielmo II non avrebbe abdicato, ma bisognava governare una sconfitta. Ora, un certo tipo di visione, anche in realtà dentro il movimento, ha sempre visto i socialdemocratici, i riformisti, i gradualisti, innanzitutto con questo termine, riformista, gradualista, che sembra quasi che siano dei buoni, poveri agnellini, che in qualche modo affrontino la politica pieni di belle speranze nella politica borghese, nella capacità di riforme, restandone sempre un po' fuori. E che di fronte all'enorme, straordinario, immenso cataclisma della Prima Guerra Mondiale, la carneficina della Prima Guerra Mondiale, ci si siano ritrovati un po' tortocollo. Si parla di fallimento della Seconda Internazionale. La Seconda Internazionale, più o meno, io penso che qui più sapete tutti quanti, do un po' per scontato, era l'internazionale che raggruppava i partiti socialisti dei vari paesi, per lo più, con la stragrande maggioranza, riformistico-gradualista. E avevano un'impostazione pacifista, almeno questa era la retorica, anche se poi nei congressi già avevano fatto dei distinguo sulla possibilità di ricorrere a delle guerre per altri motivi. Soprattutto la mia visione, la visione in qualche modo che si è sviluppata, è che in realtà la socialdemocrazia, che la scoppio della Prima Guerra Mondiale non sia stato per la socialdemocrazia e il riformismo un fallimento, non ci sia stata un'implosione, ma anzi ci sia stata la loro piena rivelazione. E i socialdemocratici in Gran Bretagna, in Francia, in Germania in particolare, cioè nei tre paesi principali della Prima Guerra Mondiale, attraverso la porta della Prima Guerra Mondiale entrano al governo. Prima erano aperti al potere borghese, nelle forme parlamentari, dentro i parlamenti si faceva lotta socialista anche di tipo rivoluzionario, c'era uno sponde rivoluzionario dentro i parlamenti, ma soprattutto in dimensione riformista, ma diciamo, il passaggio al ministerialismo, a entrare nelle sfere del potere esecutivo, era stato sempre un po' controverso, contraddittorio, c'erano state delle resistenze. Si era votata nel 1904 a seguito di un dibattito molto forte sull'esperienza di Alexandre Millerand in Francia, che fu il primo ministro socialista ma fu espulso dal Partito Socialista perché entrò nel governo a seguito dell'affaire Dreyfus, una risoluzione che diceva i partiti socialisti non possono entrare nei governi borghesi salvo casi eccezionali. La guerra fu il caso eccezionale per eccellenza, lo è. Produce una legislazione eccezionale, dota lo Stato di eccezionali mezzi di intervento nella politica economica e nella società. I socialisti, di ispirazione riformistico-gradualistica, intravedono nella Prima Guerra Mondiale la possibilità, da tanto tempo agognata per quanto sottaciuta, di entrare al governo. In Germania, per riferirsi alla Germania, questo processo va avanti addirittura da fine 800. Non è il revisionismo di Bernstein che lo tira fuori. Sono i cateder socialiste, i socialisti della cattedra. In realtà questo rapporto tra università e socialisti è sempre foriero di un rapporto col potere un po' ambiguo. Succede anche in Francia con i Normalien, dell'École Normale, succede con i Fabiani in Gran Bretagna. Anche in Germania, fino all'Ottocento, dei socialisti usciti dall'università dicono no, bisogna fare politica. Agli operai, per proteggere il lavoro, bisogna entrare nella politica esecutiva. E già un paio di loro hanno dei ruoli ministeriali in Prussia, perché il sistema tedesco è diverso da quello degli altri paesi che abbiamo citato, un sistema federale dove ogni Stato ha la sua dimensione, oppure nella Germania del Sud, dove a livello locale e municipale ci sono delle collaborazioni che avvengono nel frattempo un po' in tutta Europa. Quella della socialdemocrazia è infatti una storia europea, non è soltanto nazionale come spesso è stata detta, esiste anche un internazionalismo socialdemocratico, si parlano peraltro tra di loro questi elementi, in particolare della destra socialdemocratica che vogliono entrare al potere. In particolare in Germania si sviluppa dentro lo Stato bismarchiano e poi di Guglielmo II un potentissimo sindacato, i sindacati liberi, guidati dal 1900 da Karl Eggen, perché di questa visione del rapporto diretto col potere diventa un protagonista, condiziona direttamente l'SPD, la socialdemocrazia, la condiziona nella sua ala destra, da cui spiccano già all'inizio del Novecento Ebert, che ora ritroveremo dopo il 18, e Scheidemann in particolare, che sono i due elementi più forti della destra socialdemocratica tedesca. Il tentativo di quando scoppia la guerra, come sapete, in Gran Bretagna, Francia e Germania i partiti socialisti votano i crediti di guerra. In Germania si va oltre, non si vota solo i crediti di guerra, si vota la possibilità di inserire una legislazione eccezionale nel guidare la guerra. Per i tedeschi era qualcosa di differente, di innovativo, perché non deleghiamo soltanto ai militari la compressione della società e la finalizzazione, la mobilitazione della società per fini bellici. Facciamolo noi, la facesse la classe politica, ci si proponeva a farla. Ovviamente in un sistema come quello imperiale si era esterni però al potere e si rimase esterni per tutto la guerra. Ma in questa esteriorità non era completa, esistevano delle dimensioni interministeriali, parasindacali, delle commissioni, per esempio in Italia, perché è un fenomeno europeo, il Comitato di Mobilitazione Industriale, sulla falsariga di questi comitati c'erano anche in Germania, in cui collaboravano direttamente i capi dei sindacati liberi e la parte destra della socialdemocrazia. La socialdemocrazia della guerra si spacca. Accanto all'SPD, specialmente col prolungarsi della guerra, nasce l'USPD, che sarebbero i socialisti socialdemocratici indipendenti. Piano piano, quella che fu inizialmente una espressione personale di dissenso nel Bundestag di Karl Liebknecht, che fu l'unico dell'SPD a votare contro i crediti di guerra, non lo fece subito. Alla prima elezione votò anche lui per i crediti di guerra. Votò per i crediti di guerra per disciplina di partito. Alla seconda elezione, perché i crediti di guerra venivano rivotati continuamente, invece cominciò a rifiutarsi di votare. Rosa Luxemburg era esterna al Parlamento, non era nel Parlamento. Dentro l'SPD ci fu una votazione precedente al voto del crediti di guerra che diede una maggioranza al voto dei crediti di guerra. Tra coloro che votarono contro i crediti di guerra vi era un socialista, Lensch, meno noto al pubblico, che elaborò proprio durante la guerra, insieme a Kunov e a un altro socialdemocratico, fece un passaggio, fondò una rivista, Die Glocke, e arrivò a giustificare teoricamente la dinamica rivoluzionaria della partecipazione socialdemocratica al governo di guerra. La socialdemocrazia non rispose soltanto a degli impulsi esterni, si propose l'obiettivo di andare a governare il governo di guerra, si dispose a farlo. Vi leggo una citazione che era di un professore dell'economia nazionale dell'Università di Münster su Die Glocke, che era la rivista di questa corrente della socialdemocrazia che teoricamente cominciava in qualche modo a consacrare l'idea che i socialdemocratici potessero governare meglio delle altre forze politiche, meglio dei militari, la guerra e il capitalismo. È tempo di riconoscere il fatto che il socialismo deve essere politica di potenza, perché deve essere organizzazione. Il socialismo deve conquistare il potere, non deve mai distruggere ciecamente il potere. E la più importante e critica domanda per il socialismo al tempo della guerra fra popoli è necessariamente questa: quale popolo è preeminentemente chiamato a potere perché è leader esemplare nell'organizzazione dei popoli? Il tedesco. Il capitalismo stesso è una forma di produzione dal tremendo potere rivoluzionario, su questo si può anche essere in parte d'accordo, emana rivoluzione da tutti i pori, appare come un baluardo contro la rivoluzione solo perché è lui stesso per natura così profondamente rivoluzionario. La guerra, il capitalismo è rivoluzionario perché promuove un continuo cambiamento fra le classi, le situazioni, gli uomini e le state, distrugge i rigidi sistemi sociali feudali, supera le primitive forme culturali. Ritorno alla citazione. Finalmente la guerra, la grande pietra di paragone per rivelare la vera natura di tutte le cose, anche questo è sintomatica come visione, esibisce più direttamente il carattere rivoluzionario del capitalismo. Così che percepiamo che la guerra mondiale non solo è una manifestazione del capitalismo mondiale, ma allo stesso tempo è una rivoluzione, la rivoluzione, la più grande rivoluzione avvenuta dalle migrazioni delle nazioni e dai massacri degli unni. Capite come c'è la trasformazione, il rovesciamento della dimensione dell'analisi sull'imperialismo che facevano in quegli anni, aveva fatto pochi anni prima Lenin, ma che la stessa Luxemburg e Liebknecht che aveva maturato nei loro scritti sul militarismo. C'è l'idea che è effettivamente la massima espressione del capitalismo la guerra, ma la socialdemocrazia è la forza più adatta a guidarla. Ed è la forza più adatta a guidarla in Germania, perché la Germania è di queste forze la più sviluppata, la più avanzata dal punto di vista dello sviluppo capitalistico. Perché? Perché ha rotto col libero commercio, ha rotto col mito della proprietà privata, ha cominciato a statalizzare, a socializzare almeno concettualmente l'economia. Diventava un capitalismo razionalizzato anche in termini politici, non soltanto in termini fordisti, eccetera, dal punto di vista così. Questo dialogo va avanti anche con grandi capi dei padroni tedeschi. Walter Rathenau, un economista nonché leader imprenditore, è uno dei più attenti e acuti osservatori della trasformazione dell'economia, dell'ordine nuovo che si aprirà dopo la guerra. Noi siamo abituati a ragionare in termini di ordine nuovo immaginandoci i grandi nazionalsocialismi, il fascismo, no? Questa idea della rottura con l'ordine liberale che veniva e proviene dalle dittature di destra. Invece la socialdemocrazia anticipava questi processi. Addirittura, poi arriveremo nel 19, anche proprio facendo poi un patto formale a livello politico tra i sindacati e i padroni, la prima esperienza non solo concertativa, ma proprio di saldatura politica poco prima, nel novembre del 18, due mesi prima dell'uccisione di Luxemburg e Liebknecht. La Germania è la più adatta, ma non è l'unica, perché in Francia e in Gran Bretagna sta succedendo la stessa identica cosa. In Francia addirittura, appena scoppiata la guerra, viene nominato ministro delle armi e munizioni, prima sottosegretario, poi ministro, ovvero a capo della produzione bellica, ovvero a capo del sistema industriale francese in guerra, un socialista, Albert Thomas, figlio della scuola Normalienne, prima direttore della Revue Sindacaliste e Revue Socialiste, uno dei massimi esponenti del revisionismo statalista, lo possiamo dire, dentro il socialismo dell'epoca. In Gran Bretagna è un po' diverso, perché i laburisti sono un po' frignoni in questo, sono ancora un po' legati al liberalismo, ma è il liberalismo che guarda avanti, e Lloyd George, che poi guiderà la Gran Bretagna, che apre non solo ai sindacati, quello vabbè, ma avrà un'idea di superare l'SFR, la teoria manchesteriana dell'economia. L'economia di guerra è un'economia che va guidata per la prima volta anche in Gran Bretagna, e lo fa poi introducendo dentro il governo dal 1916 in poi Henderson, Arthur Henderson, che era il capo del Labour Party inglese, dando a diversi laburisti ruoli chiavi nell'approvvigionamento, nella distribuzione e nella razionalizzazione delle derrate, insomma un processo che avveniva. La socialdemocrazia non era soltanto un cane da guardia, era la guardia, si stava trasformando nel potere, si candidava a essere il potere che usciva dalle catombe della prima guerra mondiale. Dal punto di vista etico-morale, che cosa gli poteva fregare alla socialdemocrazia di quattro spartachisti che si ribellavano di fronte al progetto di presa del potere che si stava compiendo, e si compieva in tappe velocissime? Noi pensiamo che il sistema e il potere hitleriano, no, è stato aberrante anche nella velocità con la quale è salito al potere, no? Da 1932 la prima affermazione elettorale, nel 1933 prende il potere senza avere la maggioranza assoluta in virtù della concessione dei poteri speciali, in pochi mesi legalizza il sistema, muore peraltro Hindenburg, unifica le cariche e diventa il Führer del Terzo Reich. La socialdemocrazia lo fa in due mesi, lo fa tra l'ottobre e il novembre del 1918. Nei primi giorni del 1918, in particolare nel 9, dopo l'abdicazione del Kaiser di Guglielmo II, Scheidemann si affaccia al balcone e proclama la nascita della Repubblica Tedesca. Contemporaneamente, Liebknecht annuncia la nascita della Repubblica Socialista di Germania. Cercava di farlo un po' prima dell'SPD, c'era un po' una contesa. Poi io lascerò agli altri relatori la disamina sul ruolo dei consigli. I consigli esprimono alla fine una maggioranza filo socialdemocratica, quindi è quella la grande contraddizione della rivoluzione tedesca, no? Sui consigli invece ci si poneva l'idea di un certo tipo di potere. E questo passaggio forma un governo, per la prima volta c'è un governo pro tempore di tre socialdemocratici e tre socialdemocratici indipendenti, che non è che capiscano molto bene qual era il gioco e la partita in quel momento in corso, e dicono vabbè, uniamoci, la sinistra, la Repubblica può diventare socialista, Haas, che era il capo dell'USPD, entra in questo governo, ma rimangono in una posizione di subordinazione. Il vero capo è Ebert. Ebert è quello a cui risponde prima di tutto l'amministrazione dello Stato, che non vuole disgregarsi, vuole mantenere il suo potere. Quando prendi le redini del potere, quella macchina è la macchina dello Stato che metti in moto, che cerchi di guidare. E lui si mette in moto e cerca di guidare quella macchina. Però manca qualcosa, e cosa? L'ordine pubblico. L'ordine pubblico tedesco è in dissoluzione, perché l'esercito è in dissoluzione, perché grande parte dell'esercito tedesco guarda la rivoluzione comunista. I marinai di Kiel che si sono ammutinati nell'ottobre del 1918, gran parte dell'esercito tedesco è sbandato, molti contadini sono tornati nei campi, peraltro in ritardo perché ormai era inverno, quindi ci fu una terribile carestia che provocò centinaia di migliaia di morti tra l'autunno e l'inverno di quegli anni. Questo sempre anche per ricordarci, quando si parla di centinaia, milioni di morti, bisogna sempre ricordarsi che c'era un fenomeno in un'Europa distrutta e dilaniata dalla Prima Guerra Mondiale che toccò più paesi. Allora, come farà a ricostituire l'ordine pubblico? Ebert si pose il problema, incaricò Noschke di ricostruire il sistema di difesa, un altro socialdemocratico di destra, legatissimo a Legien. Ah, tra parentesi, il 15 novembre... Non è stato firmato il patto Legien? Sì, stavo di dire, il 15 novembre, tra l'altro, è stato firmato il patto Legien... Stimmes, che era il capo della Confindustria tedesca, patto che lega la cosa, e lo stesso giorno viene firmato il patto Ebert-Groener. Chi era Groener? Groener era il capo di stato maggiore dell'esercito che aveva sostituito Ludendorff se n'era andato ed era stato nominato questo Groener. Questo patto però non basta a salvare la socialdemocrazia nascente, la repubblica nascente. Le forze sono deboli, l'esercito regolare non basta, anzi è minato dalla propaganda spartachista, dalla propaganda bolscevica. Non bastano neanche le squadre d'azione repubblicana che provano a fare. Fanno dei bandi d'arruolamento di milizie, di volontari di sicurezza nazionale, non so se vi suona familiare, per cercare di racimolare dei difensori esterni, volontari, per la Repubblica. Sì, ci riescono, fanno dei battaglioni, ma questi battaglioni sono deboli, fragili, non riescono a sedare il moltiplicarsi di... perché la rivoluzione spartachista fu un caso che nacque a Berlino, in particolare dopo la destituzione del capo della polizia, che all'epoca era un po' come i questori dopo la resistenza, nominati durante la guerra dai consigli del popolo. Ma furono un susseguirsi di rivolte che non tendevano a non arrestarsi. Allora cosa corse in aiuto? I Freikorps. Cos'erano questi benedetti Freikorps? Questi Freikorps erano gruppi di soldati appartenenti alla Wehrmacht, specialmente dei reparti d'assalto, sbandati, che si erano ricostituiti non tanto perché, così, in virtù di una straordinaria loro esperienza, è perché l'esercito tedesco ufficialmente doveva ridimensionare l'esercito in seguito alle prime clausole del Trattato di Versailles. Sotterraneamente cercava di riorganizzarlo in termini paramilitari. Questi Freikorps si erano rifatti le ossa dopo la guerra, combattendo nelle confini orientali della Germania, dove i polacchi, appena nati, rompevano le scatole per dei territori tedeschi, e anche delle truppe bolscevichi tentavano delle sortite in territorio tedesco, magari andando ad aiutare la rivoluzione incipiente. Alla base di questi tentativi c'era anche la nascita del Partito Comunista di Germania, ma su questo parleranno sicuramente chi sarà dopo, che nasce proprio tra il 1918 e il 1919, quasi come a dare un gancio verso Oriente, dicendo facciamola insieme. Questi Freikorps arrivano, sanno combattere, non hanno particolare pietà e non rispondono a un codice etico né a un codice politico. Vengono fermati, arrestati, la Luxemburg libera anche diversi centinaia di altri operai, e sapete la fine che è stata fatta, che viene fatta. Viene fatta l'assemblea costituente, nasce il primo governo ufficiale, quello di prima. I socialdemocratici e l'SPD escono nel frattempo dal governo, quindi rimangono soltanto i socialdemocratici maggioritari, cioè quelli di destra in questo momento, entra Noschke. Le elezioni della costituente danno dei risultati estremamente favorevoli all'SPD e la nascita del primo governo ufficiale, Scheidemann-Ebert. c'è giubilo, c'è grande soddisfazione, è una soddisfazione che appunto di una Repubblica nata in maniera travagliata relativamente. Ah, un'altra cosa, i Freikorps a un certo punto vengono sostenuti dagli stessi alleati occidentali, che avevano punito l'esercito ufficiale, ma avevano una funzione antibolscevica a est fondamentale. Questo per dirvi che i carnefici spesso non sono soltanto tali perché adempiono una funzione storica, perché qualcuno li incarica di adempiere. I carnefici sono tali perché scelgono il ruolo di carnefice. La socialdemocrazia in generale ha questa capacità di riuscire più credibile come carnefici dei movimenti rivoluzionari rispetto ad altri sistemi di potere. Quella del 1919, la rivolta spartachista, di cui vi parleranno più, come dire, in termini politico-ideologici i compagni e le compagne che mi seguiranno, fu effettivamente la storia di una sconfitta e fu la storia di un'affermazione clamorosa, quella della socialdemocrazia tedesca, che questa fu fatta col sangue degli operai e col sangue dei soldati rivoluzionari. Non è una novità, era forse una novità allora, ma non sarà una novità per il resto del Novecento. Grazie. Ringraziamo Bobo per il contributo e adesso da Giorgio di Radio Onda Rossa. E poi chiunque volesse, insomma, fare un intervento alla fine delle quattro relazioni, venga qui, segniamo l'intervento e mettiamo in contatto.